Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ma quanti anni ho? 36, 37, ho perso il conto. 40. Come 40? Vuoi scherzare? Ma vuoi che non lo so? Ti te sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno? Ti te che è la stessa età del castagno? 40 anni precisi, te capì? 40 anni? Allora sono vecchio. E molla la torta! Oh, se dice cosa vecchio, sei ancora un ragazzo. 40 anni. E proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato. E loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare 40 anni passati qui, in mezzo agli Zulu a consumare la mia giovinezza. Ma andate a fanculo! Faminga in sci, gioia! Te ne pare tu un matto! Mi sono rotti i coglioni! Io devo fare assolutamente qualche cosa! Non voglio fare la fine del castagno! 40 anni per un uomo, sono l'ultima spiaggia! Oh, signor, se ne vuole andare al mare! Ma te non sai nuotare! Ora no! Non ho l'età. No, mi ha messo una tristezza. No, Pierre. Ma poi non dobbiamo essere autore. Che succede? Sei all'ultima spiaggia. Sì, perché sì, vabbè, 40 oggi... anni, 40 anni oggi. In realtà alle 17.30, quindi ancora mancano 3 ore. E comunque il castagno, anch'io ho il castagno piantato nel giardino, sì, di casa, esatto. Sì, sei anche sull'elenco di Wikipedia, I nati del 1974, Pierluigi Pardo, conduttore televisivo, fra Ariel Ortega, ex calciatore argentino, e Andreas Stitzel, con il quale tra l'altro mi lega un rapporto di amicizia profonda. Io e Stitzel spesso andiamo al castagno. Sai qual è il piatto preferito di Stitzel? No. La pasta alla nonna, capito? Perché Stitzel chiaramente cerca gli opposti. Comunque, tu sei l'ultima spiaggia, non hai portato la torta. Diciamo. No, poi magari facciamo anche il selfie. Facciamo il selfie, quello di ieri è andato bene. Tiki-taka. Sì, senza torta, 40. Sì, 40, ragazzi, è inutile, lo so, infatti c'è la fascia in lutto al braccio, game over. No, invece c'è ottimismo, 40 anni si ricomincia, si rifiorisce, e poi comunque, insomma, diciamo che dimostrandone 57 ormai da 20 anni, insomma, che altro può succedere? Io ho visto che il 4 marzo sono nati Lucio Dalla, sì, Umberto Tozzi, Paolo Virzì, coi calciatori non ti è andata benissimo perché ho trovato la mela, Kenny Dalglish. Kenny Douglas, amazing player anche per Luigi Casiraghi. Vabbè, credo, però non c'è un numero uno. Capito. Numero uno come te. Come te. Diciamo che noi nati il 4 marzo, abbiamo questa grande botta di fortuna, che abbiamo una canzone dedicata al giorno incredibile, di Dalla, fra l'altro grandissima qualità, grande artista. Invece nel 1974, scomparso, che è il tuo anno, ti è andata un po' meglio, ma soprattutto del 74 è Taribo West, l'uomo che si era tolto 12 anni per fare un provino nella Rijeka. È del 74, pensa, puoi provare anche tu. Che disse a Lippi, devo giocare questa partita, perché me l'ha detto Dio, e Lippi gli ha detto, peccato che a me non ha telefonato. Facciamo i seri però, Pierre, 800 24 00 24, oggi telefoni aperti per farti gli auguri. Ma facciamo la puntata, dai, adesso veramente, che è una cosa, mi sembra anche esagerata. Soprattutto se siete nati il 4 marzo e soprattutto se siete nati nel 1974, 800 24 00 24, Franco Piantini, l'autore di questa puntata, Robby Scaltretti in regia. Facciamo i seri, io ti do una notizia che ha appena battuto l'ANSA, ed è la notizia del seguito giudiziario della storia degli striscioni su Superga, del derby Juventus-Torino. Ebbene, nella tarda mattinata la Digos ha eseguito delle perquisizioni, ci sono 3 tifosi della Juventus che sono stati denunciati, per loro il DASPO, la violazione è la violazione di una legge del 2007 che vieta di introdurre striscioni, cartelli che incitino alla violenza o contengano ingiurie e minacce. Posso dirti finalmente? Sì, poi fra l'altro sapete come la penso, questo vale ovviamente per Superga e per la serie di attività che abbiamo mostrato, la bellissima iniziativa dei dei 70 morti sotto uno stesso cielo, no? Questa mostra fotografica dedicata alle vittime di Superga e dell'Aisel, che mette insieme le due facce di Torino, che poi sono la stessa faccia, perché evidentemente chi se n'è andato con la passione per il calcio ha comunque sempre, no, gioca sempre la stessa squadra, indipendentemente fosse granata o bianconero. Quindi no, a me questi, devo dire la verità, che in assoluto di tutte le oscenità che sentiamo negli stadi, quelle che mi fanno più male sono quelle che si riferiscono a tragedie avvenute. Perché penso che poi, insomma, qualcuno, c'è stato il caso di Mazzola che si è messo a piangere l'altro giorno, qualcuno, insomma, dei familiari delle vittime dell'Aisel, o della famiglia di Vincenzo Paparelli, o di De Falchi, o di Spagnolo, insomma, o di Raciti, ecco, insomma, di fronte a quelle cose lì c'è del dolore che è un dolore fresco. Sì, hanno ragione i tifosi juventini che dicono adesso aspettiamo che analoghe misure vengano prese per finché altro... noi continuiamo a dividerci. Non facciamo i tifosi. No, appunto, ma finché ci si divide. Tifosi juventini, tifosi del Torino, la sanzione a quello gli hai dato 25.000, a me mi hai dato 35.000, non facciamo mai un salto di qualità. Qui le squadre sono due. Chi non introdurrebbe mai uno striscione del genere per non offendere la memoria di nessuno, e chi invece lo fa? E chi lo fa, sia che inneggi all'Aisel, sia che inneggi a Superga, è della stessa drammatica stirpe, e questo non c'è altro da fare, insomma. Per cui posso dire, è la cosa più pericolosa, perché il tifo è una cosa sacra, però il tifo di fronte a cose del genere non si può perdere in questa inezia del dire a me mi hanno dato 50.000, a te 30.000, perché disparità di trattamento, le curve chiuse, le cose oscene sono cose oscene e vanno combattute tutte insieme. E il tifoso della Juve dovrebbe essere il primo, e ce ne sono tanti in questi giorni, per esempio mi hanno scritto su Twitter che si sono sentiti offesi per quegli striscioni, così come tifosi ci sono milioni di tifosi, sì, della Fiorentina e del Torino, che di fronte anche Pessotto a dire no, ecco. a queste cose. Guarda cosa ti scrivono: Pardo coetaneo di Eto'o. Abbiamo fatto insieme l'autobiografia. E sì, insomma, no, 32 ce n'ha Eto'o, 32, no, 32. 35, aspetta Eto'o. Et toi? De mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début, en tout cas. Non? 32 ans, ouais, c'est clair. Peut-être 35, je ne sais pas. On ne sait pas. Pardon, 35 ans, 32. 32 anni. Dai, 40 ai 50 è il periodo più bello della vita, perché sessualmente non cambia niente, ma si ha un grande bagaglio di esperienza che ti fa vivere meglio. Ce lo scrive Paolo. Sì, ecco, Paolo, che io sarà uno che ne ha 50, perché io credo che sia meglio a 20, 25. No, poi ma bisogna vedere se sia una buona notizia che non cambia niente. Illudetevi così voi quarantenni. Tu io, quanti ne hai? 43. Ah, 43. Convocati. 800 24 00 24, carissimo Pier, oggi i giornali inondati della polemica tra Prandelli e Conte, o meglio tra Conte e Prandelli, anche se ieri Prandelli è andato giù duro, noi gli diamo sempre del democristiano, mi sembra che ieri con grazia, sorprendente quasi, abbia tirato fuori gli attributi. Te lo faccio sentire, la Juventus sapeva della convocazione di Chiellini, Prandelli. Non voglio entrare in polemica, la reazione ieri sera alle 23:22, il medico della Juventus ha mandato un messaggio al nostro medico dicendo: tutti i ragazzi stanno bene, Giorgio ha fatto riscaldamento e sta bene e a disposizione, così come tutti gli altri medici. Questa è la nostra prassi. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, Marotta, quando ha qualche problema, mi chiama e io rispondo sempre. E loro si aspettavano invece una tua telefonata? Io mi aspettavo invece una chiamata loro, punto. Maurizio Crosetti, ciao Maurizio. Eccoci. Come va? Campo, Noi riusciamo a sentirci e a chiamarci prima. Che quindi lindo. Devo dire che siamo già in vantaggio rispetto a questi due signori, meglio noi tre. Sì, potrebbero chiamare noi e fare lo staff medico. No, fra l'altro c'era questa cosa che mi ha ricordato la famosa polemica della trattativa saltata Vucinic-Guarin con l'orario esatto del messaggino. Ormai siamo in tempi il 2014 è l'anno degli SMS. Esatto, siamo in questo tempo, no, dove tutto viene perfettamente circoscritto al minuto esatto in cui è avvenuto. Ma insomma, evidentemente è per dare un criterio, un crisma di ufficialità a questo messaggio. La notizia è che Prandelli è uscito ieri dal solco buonista della sua vita, direi, no? Nel senso che forse per la prima volta l'abbiamo visto, sì, un po' meno Zappa, meno Fabio Fazio. Beh, ma ha ragione lui. Lo dite voi, sì. L'abbiamo detto, l'abbiamo chiamato così domenica, è il Fabio Fazio del calcio italiano. Ma ha ragione lui o ha ragione Conte su questa vicenda di Chiellini? Ha ragione la Telecom, nel senso che siccome tutti quanti pagano, io penso, un abbonamento, avranno tutti quanti i telefoni cellulari aziendali, insomma non dovrebbe essere difficile sentirsi prima. No, io credo abbia un po' più ragione Prandelli per due motivi, perché quando un giocatore è convocato va in panchina, fa riscaldamento, il medico della squadra di appartenenza parla con il medico della nazionale, è chiaro che il CT non può avere dei dubbi, nel senso che è sua ampia libertà, è suo compito, no? Ampia libertà poterlo scegliere. E poi ha ragione anche perché mi pare che non abbia mancato di rispetto a nessuno, mentre Conte forse dopo le partite questa carica agonistica che ha lo porta alle volte a esagerare. Un po' è curioso che se la sia presa con due juventini, tra l'altro, come Cappello e Prandelli, due colleghi juventini, forse fa rima con Sassolini, chissà. Ma appunto, magari ci sono dei Sassolini, magari, insomma, Prandelli veniva dato come possibile alternativa in caso di partenza di Conte, oppure no? Sì, come no, è stato considerato, e secondo me ha ragione, anche se poi la Juventus ha scelto il migliore tra i possibili dell'universo, perché sulla scelta, sulle capacità, proprio nessuno discute, e quindi io credo che Conte non dovrebbe nemmeno essere così suscettibile alle critiche dei colleghi, alle ombre, perché qualche volta secondo me ne vede molto più di quante ce ne siano, cioè la stima di cui gode, i risultati che ha ottenuto, la concretezza del suo lavoro, la efficacia del suo magistero, sono davvero al di fuori di ogni discussione, l'ammettono tutti, Cappello e Prandelli per primi, e quindi forse è il caso un po' di rilassarsi, anche se poi è chiaro che sta alimentando poi il suo personaggio, no? Questa specie di, sì, detto questo, di clone, insomma, murignano, e rischia di essere però di diventare vittima, anche Mourinho, che pure è un grandissimo, è diventato alla fine vittima del proprio personaggio, e quando si è vittima dei propri personaggi si rischia poi di cadere nella macchietta. Oggi, sì. oggi c'è qualcuno, Maurizio, che ha scritto anche che se la sarebbe presa perché Prandelli avrebbe telefonato direttamente a Chiellini settimana scorsa, però, in un certo senso spronandolo ad accelerare i tempi di recupero. Sì, però se ti metti nei panni della per Conte lo spogliatoio. Ragazzi, io ho viaggiato con la Juventus a Trebisonda, ho avuto anche questa esperienza, diciamo, esistenziale. E Chiellini ha viaggiato con la Juve, è stata una sfacchinata, Conte non gli ha risparmiata, perché è così che ci si fa, che si fa gruppo, che si sta insieme, ci si può allenare a parte a Trebisonda, come a Coverciano, come a Vinovo, ed è la stessa identica cosa, due ore di aereo da Milano a Barcellona non possono uccidere nessuno, quindi secondo me hanno tutti un pochino esagerato. Poi certo che se domani dovessi giocare 90 minuti alla morte rischiasse, certo, di farsi male, ma questo non succederà. No, questo non succederà. Detto questo, io dico anche che un po' la Juve la capisco, nel senso che la Juve, sappiamo benissimo quelli che sono i rapporti in generale fra squadre di club e nazionali, no? Le nazionali ovviamente al di là dei premi non pagano lo stipendio ai giocatori, i giocatori tutte le volte vanno in nazionale, lo fanno ovviamente per se stessi, per la patria, perché esistono cose anche immateriali nella vita, ma chiaramente dei rischi se li prendono. Conte dice, diamo tanti giocatori e questo rischio ce lo prendiamo continuamente con la nazionale di Prandelli, abbiamo un rapporto consolidato, l'ossatura della squadra è giustamente un'ossatura bianconera. Sì, Chiellini insomma tecnicamente è guarito, ma non è ancora pronto, tant'è vero che è rimasto solo in panchina, perché deve fare una cosa? Sì, ma io ti ribalto la secondo questione. Me della sostanza c'è di fondo, è brutto, sicuramente è brutto che questa cosa si sia espressa in questa maniera così diretta, perché ha dato l'idea di quasi di un atto di arroganza, in realtà forse era una cosa che con il dialogo si poteva risolvere prima, non lo so. Io ti ribalto la questione, tu ricordi le polemiche che ci sono state nei mesi scorsi quando si è saputo che Prandelli e Conte avevano concordato un percorso per Pirlo e per altri giocatori della Juventus, anche soltanto allenamenti differenziati del gruppetto dei giocatori juventini avevano scatenato dietrologie da parte dei dirigenti del Napoli, da Roma, che cosa sarebbe successo se ad esempio a questo giro, ad esempio Kroos, Prandelli avesse evitato a Chiellini la convocazione? Ma forse non ci sarebbe stata una sollevazione di massa, ma è di certo che se una squadra è fornitore della Real Casa, perché ha giocatori molto forti, perché è il gruppo migliore e perché il CT chiama questi giocatori inevitabilmente, ovviamente non quando sono indisponibili, certo, poi è inevitabile che non sia contentissimo l'allenatore della squadra medesima, è una storia vecchia. Del resto, essere i più bravi significa anche dover fare qualche sacrificio in più e anche andare in nazionale. Tra l'altro la nazionale viene sempre vista come una forma di fastidio lontano dai grandi avvenimenti, però poi quando ci sono i mondiali e gli europei, se non arriva almeno in semifinale, allora sono tutti dei mentecatti. Questo volevo dire, perché io penso, che sicuramente i giocatori della Juve, che sono l'ossatura di questa nazionale, hanno dato una grandissima mano, quindi hanno dato alla nazionale, ma secondo me un po' hanno anche preso, nel senso che grazie comunque loro, cioè secondo me sono cresciuti ulteriormente, cioè la nazionale, la finale dell'europeo, l'aver vissuto certe situazioni, secondo me ha contribuito a migliorare gente come Barzagli, certo, come Bonucci. Ma non solo Pier, hai talmente ragione che siccome abbiamo parecchi anni, io più di te, di esperienza di calcio e di conoscenza dei personaggi, io ricordo perfettamente Conte che era un grande giocatore ed è anche, guarda, ti do uno scoop, è una persona anche molto simpatica e spiritosa, mentre sembra un assatanato, perché lui non è così fuori dalla transagonistica. Io mi ricordo che quando veniva convocato in nazionale e alla fine del suo percorso, che è stato molto sfortunato perché lui ci ha rimesso un mondiale per un infortunio, un europeo, poteva avere molto di più dalla maglia azzurra, ma lui, siccome è una persona che sa le cose come stanno, ha sempre detto che quel poco di nazionale lo ha comunque fatto crescere moltissimo, quindi non può ignorare il fatto che la nazionale sia davvero importante, fuori di retorica, è una cosa molto importante, non possiamo occuparcene solo una volta ogni 4 anni, anzi una volta ogni 2. Ti piace questa versione celodurista di Prandelli? C'è chi dice anche è stata il primo messaggio del nuovo quadriennio, da qui al 2018 i club devono mettersi in testa che i rapporti con la nazionale saranno diversi, non andrà più col cappello in mano a chiedere anche questi stage che sono stati approvati. Sì, però siamo nell'anno del mondiale. Io voglio vedere dall'11 di luglio e per il biennio successivo se ci saranno stage. Meno male, perché grandissimo rispetto a parte che Prandelli gli stage li ha fatti e se li ha presi lo stesso, perché è 2 anni, correggimi Maurizio, che convoca 27, 29, 30 giocatori anche per singola partita. Secondo me che lui aveva già scelto comunque di tenere sotto occhio tutti. Erano saltati quelli per la morte del povero Morosini 2 anni fa. È così, e poi c'è anche una svolta storico-politica, ecco, possiamo così dire, per Prandelli. Non dimentichiamo che questa è la sua prima convocazione da premier, no? Da renziano al governo, quindi non è più democristiano, ma è diventato renziano, e quindi questo vuol dire anche che ogni tanto bisogna alzare la voce, rispondere, fare battute, essere sul pezzo, e quindi è una nuova fase. Sì, allora aspettiamo che apra l'account Twitter Prandelli, così sarà renziano. Perché twitti la mattina presto, perché è molto renziano twittare la mattina presto. De Sciglio è fermo il 19 febbraio, è stato convocato, come mai nessuno ne parla? Ci scrivono, due pesi e due misure, col Milan che fra 7 giorni si gioca tutto, ce lo scrive Luca da Rimini, come mai? ma Prandelli ha detto che ha aspettato l'ora tarda, l'ora della sera della partita, domenica sera, proprio perché aspettava i messaggini o le notizie dei medici per l'appunto del Milan e della Juve, poi certo avrà valutato in piena coscienza a seconda dei casi, però davvero io toglierei qualunque dietrologia dalle spalle di quest'uomo che già ne deve portare di pesi d'ogni grandezza, no? da qui ai mondiali e non solo. Adesso sta diventando un super CT, nel senso che ha capito che forse è meglio restare, con poteri diversi, con un piano probabilmente più approfondito, e va detto anche con minori alternative sul mercato, perché poi non bisogna essere ipocriti. Il Milan era un'ipotesi che non ci sarà, il Tottenham era un'ipotesi e Baldini sta scemando e non sarà il Tottenham quasi certamente, quindi voglio dire Prandelli fa anche bella figura, però certo. Diciamo che rimane lì anche perché non è che ci siano tutte queste panchine disponibili, ecco. Vi faccio sentire Prandelli sul codice etico, così poi Maurizio mi dici che cosa ne pensi. Il codice etico è un regolamento nostro, soprattutto la partita della domenica, la partita dove dopo c'è una convocazione. E guardando negli occhi i miei calciatori ho detto, in quella partita sono io il giudice, non devo aspettare nessun tipo di prove, niente, sono io che guardo tutte le partite, e se qualcheduno di voi fa un gesto che secondo me non è in linea con i nostri comportamenti, non viene. Io faccio questo perché voglio arrivare ai mondiali e non giocare in 10. Io voglio arrivare ai mondiali che dobbiamo sopportare tutti il peso di questa responsabilità, ma non dobbiamo fare gesti sconsiderati, punto. Io e Pardo siamo d'accordo sulla definizione del codice etico. Tra l'altro ha incassato l'endorsement, come dicono quelli bravi, del Bosch, che ha detto che è una buona idea, che potrebbe usarlo. Sì, potrebbe usarlo, potrebbe. Secondo me qui il condizionale fa la differenza. Maurizio? Ma io trovo in questo ragionamento, premesso che il codice etico, come, cioè che l'etica, no? Il codice, l'etica è, non è mai abbastanza considerata ed è sempre troppo spesso dimenticata in uno sport che di etico non ha quasi più nulla, però mi sembra un po' debole il momento in cui Prandelli dice lo faccio perché non voglio restare in 10 al mondiale, cioè non deve, l'etica non è da usarsi per scopi utilitaristici, cioè non bisogna essere etici perché sennò giochi con uno in meno, bisogna essere etici perché sì. E basta, l'etica è sufficiente a se stessa, non c'è bisogno di rischiare le squalifiche. In quel momento del suo discorso, secondo me, Prandelli indebolisce un po' la forza, sì, di un concetto perde che non un po' di forza. Forse sì. E poi forse anche nella coerenza dell'applicazione, ma questa è una cosa che viene detta e scritta da mesi. Sì, è il codice un po' etico. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Grazie Maurizio Crosetti Borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Perché a 40 anni si fa una specie di bilancio, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita. Ci sono persone che a 40 anni, Bill Gates a 40 anni era già l'uomo più ricco d'America. 40 anni, a 40 anni Pier Silvio Berlusconi è vicepresidente Mediaset, amministratore delegato RTI, consigliere del gruppo Mondadori. 40 anni, a 40 anni Dante Alighieri aveva già scritto, anzi aveva cominciato a scrivere uno dei più grandi capolavori letterari mondiali, La Divina Commedia. A 40 anni Piero Angela aveva già tagliato il traguardo delle 2000 puntate di Quark, Super Quark, il meglio di Quark, tutto Quark, il figlio di Quark, ma se Quark porta te n'annassi in vacanza. A 40 sì, è tipo una seduta psicanalitica oggi, ho capito. Che dobbiamo fare? Allora, il presidente del Consiglio ex Letta aveva detto il 2014 sarà l'anno dei quarantenni. Esatto. Ecco, sai che fine ha fatto Letta? Però è un 39enne adesso, cioè, no? Renzi è del 75, mi pare. Non lo so, 74. controlla. Marco da Padova 800 24 00 24. Marco. Buongiorno. Buongiorno. Due cose veloci. Sì. Sono invece d'accordo con Prandelli. No, prima gli auguri a Pierre. Gennaio 75, ecco, Renzi. Prima gli auguri a giorni non è 74. Prima gli auguri a Pierre. Sì, basta. grazie. Prego. No, dicevo, sono d'accordo con Prandelli invece, che quando dice che fa queste cose per non rimanere in 10. Cioè, io lo trovo un rafforzativo, non una cosa che diminuisce l'aspetto etico, perché è solo allenandosi, no, a essere corretti e non cedere alle pressioni che poi si riesce alla fine non lasciare la squadra in 10 ai mondiali, che sarebbe un peccato capitale. E poi una cosa veloce, nessun giornalista chiede mai ad Abete perché l'Italia non ha una coppa federale come gli altri grandi paesi europei, ma abbiamo una sottospecie di coppa chiamata Coppa Italia, che poi è una coppa di Lega. Potrebbe essere una domanda da fare ad Abete. C'è una coppa in più, vorrebbe? Po' come l'Inghilterra. Una serie al posto di quella inesistente che c'è adesso, non è come adesso la Coppa d'Inghilterra o come la Coppa di Francia. Ma allora, devo dire una cosa, 20 anni fa la Coppa d'Inghilterra era forse più importante del campionato. Oggi la Coppa d'Inghilterra non è più importante del campionato. Da quando c'è la Champions, che è chiaramente una competizione che il sogno di tutti, mi sembra che le coppe nazionali si siano abbastanza inesorabilmente ritagliate un ruolo da terza forza, e questo succede anche in Inghilterra. Devo dire che in Italia abbiamo avuto varie fasi, c'è stato un momento in cui veramente non gliene poteva fregare di meno nessuno. Mi sembra che sia cambiato in questi ultimi anni, con una formula abbastanza assurdamente blindata a favore delle grandi, questo va detto. Sì, però sono arrivati gli ascolti TV, sono arrivati i semifinali e finali di alto livello. Abbiamo avuto Roma-Juve, Napoli-Roma, c'è stato il ci poteva essere Roma- Milan Milan-Inter, c'era la possibilità di Milan-Inter se ovviamente avessero passato il turno, e invece sono uscite evidentemente tutte e due, quindi insomma mi sembra che la Coppa non sta male, dai, non sta male. A me sembra che fra le poche cose positive che siano state fatte in questi anni dal calcio italiano ci sia che finalmente è stato trovato un equilibrio per la Coppa Italia, che ha un suo interesse, una sua dignità. Il prestigio non lo puoi fare a tavolino, ci manca un'altra coppa, dai, ci manca un'altra coppa in un calendario che tra l'altro è già strapieno. Cristian da Perugia, Cristian. Buongiorno a tutti, innanzitutto auguri a Pardo. Grazie. Poi volevo intervenire sul discorso Chiellini-Prandelli o Prandelli-Conte. Io sento, sono tifoso juventino e sono d'accordo con voi quando dite che comunque Conte ha esagerato nel suo discorso, però io non capisco una cosa: se un giocatore viene da un infortunio, qual è il motivo della convocazione? Non c'ha senso comunque, perché tu devi comunque chiamare i giocatori che sono più in forma. Sì, ma in nazionale si va anche per fare gruppo, si va per stare insieme. Prandelli l'ha sottolineato, questa, lo ricordiamo, è l'ultima convocazione prima delle convocazioni del mondiale. Sono d'accordo, però in questo caso non doveva essere il dottore, il medico a chiedere al medico della Juve se perdonami Cristian, doveva chiamare Conte e dirgli guarda, porto via Chiellini per un discorso diverso, secondo me, questo è il mio punto di vista. Sì, però perdonami Cristian, questo mi sembra però un problema di comunicazione all'interno della Juventus, cioè è un problema della Juventus se alle 23:22 di domenica sera, mentre Marotta e Conte stavano sparando a zero su Prandelli, il medico mandava un messaggino per dire che era tutto a posto ed era disponibile. Questo mi sembra, Pier, sia un problema interno alla Juve. Sì, alla problema interno alla Juve, però ribadisco, secondo me un minimo di ciccia c'è, nel senso di dire abbiamo un grandissimo rapporto con 8 giocatori che vengono sempre. Cristian, dove abiti a Perugia tu esattamente? Sono fuori Perugia, Castiglione del Lago. Castiglione del Lago, perché fra 5 minuti andiamo da un tuo quasi concittadino, che ha fatto anche, che è stato anche campione del mondo, fra l'altro. Sì, dando anche un contributo di una certa importanza. Grazie Cristian. Sempre a proposito delle questioni legate a De Rossi, al codice etico, a tutte queste cose che stanno facendo discutere, ti faccio sentire Prandelli su De Rossi. Sì, perché ieri ha avuto uno sfogo anche su questa storia, proprio sul suo rapporto con De Rossi. Senti Prandelli. Per me sono tutti dei non dico dei figli, ma di più. Cioè, io De Rossi l'ho convocato quando non giocava nella Roma. Cioè, io ho una grande stima di Daniele in maniera smisurata, però non voglio andare ai mondiali impreparato. Voglio che ci sia una discussione adesso, magari anche una forte polemica, ma quando partiremo dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Io non voglio gesti sconsiderati, punto. Questa è la frase che anche Maurizio Cosetti ci scrive. Quindi per uno sputo in faccia 2 settimane prima delle convocazioni si verrà convocati senza problema, ci scrive Marco da Ferrara. Si resta a casa senza problemi. Ma figurati, dai. Oppure se l'ultimo campionato Balo, Pirlo, Buffon fanno una cappellata, si può dire, verranno esclusi dai mondiali. Ecco, questo lo dice Prandelli, che non ha cioè Totò da Como, che non ha grande simpatia per Prandelli. Io credo veramente che la ratio, l'idea di partenza del codice etico sia assolutamente condivisibile e bella, perché comunque chiunque è un personaggio pubblico e fa un lavoro comunque così visibile, se riesce a fare delle cose belle, e Prandelli ne ha fatte tante, fra Scampia, campagna antiomofobia, ha fatto 1000 cose importanti di sensibilizzazione, merita un applauso. Qui è un casino, anche perché poi ieri si è giustificato sul discorso che conta la partita immediatamente precedente. E che vuol dire? L'etica, cioè, non è che se tu fai un furto 5 giorni prima dici vabbè, ma l'ultima partita. Ma io ripeto, secondo me, non perché ce l'abbiamo con Balotelli. Balotelli che dice io ti ammazzo all'arbitro, non è questione di minuto più, minuto meno di quando è scaduta la squalifica. L'etica non la puoi. Sei un po' incartato, dai. L'etica è una roba assoluta, come diceva Crosetti prima. Non la puoi tirare per la giacchetta a seconda delle convenienze o burocraticamente dire, come era successo quella volta, Balotelli ha già scontato la squalifica, le 3 giornate. Allora, o c'è l'etica, per cui quelle 3 giornate lì sono state un indice di cattiveria agonistica eccessiva e non lo convochi, oppure allora questo principio però viene un po' messo in discussione. Per me sei incartato, mi sono incartato pure io. Fabrizio D'Ancona, Fabrizio. Sì, allora, volevo solo dire una cosa a Pardo, che è un talento assoluto. Io non porterei 10 nazionali, porterei Pardo. Le abbiamo selezionati. In qualunque ruolo, perché Pardo, dove era nascosto fino adesso? Pardo non si capisce, ma è una cosa. Sì, non ha iniziato ieri, Pardo, io lo porterei al mondiale al posto di 10 nazionali. Beh, mi sembra. Per... sì. Tanto per chiarire. Allora, ci stiamo lavorando comunque, sì, grazie, grazie. Il discorso sì. di Prandelli Conte, sì. Conte non è facile dargli ragione, ma stavolta c'ha ragione al 101%. Ma voglio dire, anche che fosse l'ultima preparazione prima dei mondiali, sto ragazzo è tre settimane che non si allena, che motivo c'era, anche perché è un intoccabile, arriverà ai mondiali sicuro, che motivo c'era di portarlo per l'amichevole di martedì? Come si fa a dare torta a Conte in un'occasione così? C'ha ragione al 101%. Sì, io credo che il problema di quello che ha detto Conte non sta tanto nella sostanza quanto nella forma, perché dire esatto. che il CT è stato poco educato perché non ha telefonato quando evidentemente in quelle ore è successo anche altro, e poi Prandelli ieri lo ha ricostruito, secondo me è un po' esagerato, così come Conte aveva esagerato nei modi con cui se l'era presa probabilmente con Capello, così come quest'anno stiamo conoscendo un Conte con i nervi particolarmente sì. scoperti. Io credo, Pierre, il problema sia questo. Sì, anche perché se ci fosse stato un rapporto di enorme collaborazione, vista l'amichevole, vista la convalescenza di Chiellini, probabilmente l'accordo ci sarebbe stato, si sarebbero sentiti loro e l'avrebbero. Quindi diciamo che questi qui sono due indizi che fanno una prova, che forse il rapporto fra Conte e Prandelli non è così affettuoso e amichevole come si poteva pensare, perché altrimenti io credo che non si sarebbe arrivati al punto di questa discussione così in piazza. Ci scrivono, innanzitutto c'è la signora Antonella, interista sfegatata, 84 anni, ascolta il signor Carlo, delizioso, il signor Jane. E lei, Capuano, immagino, tutti i giorni. No, lei Pierluigi Pardo. No, vabbè, comunque cioè, noi sarà all'inglese you, che può essere anche il plurale, la abbracciamo ovviamente alla Parenzo, la abbracciamo fortissimo, signora Antonella, 84 anni, ci fa molto piacere, evidentemente. E poi il talento, senti la Diego, questo è un filosofo, il talento con un carattere docile è come una bella donna simpatica, il massimo, ma utopia pura. Ecco, questi siamo agli aforismi. Ha ragione, è pieno di belle donne simpatiche, sì, anzi, spesso... Sì. Sono proprio le più, sì, dica. Leonardo da Verona. Sì. Leonardo. Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, certo. Oh, finalmente posso parlare con gente che stimo, sì. anche se non conosco. Allora chiama domani, Leonardo. No, con perché... gente, con gente, ho detto, no, con gente, era la gente, no, sì, sì, tranquilli, sì. Tranquilli. Prego, Leonardo. Allora, io sono un allenatore di calcio femminile. Ho vinto i miei scudetti, le mie coppe, sono andato in Champions e ho rivissuto questi giorni la situazione che ho vissuto io con Carolina Morace, una delle poche che non ho allenato nel calcio femminile, dei top del calcio femminile. Qui, con tutte le debite proporzioni, però mi sembra che sia non evidente ancora di più che il ruolo di Prandelli sia quello che lui non ha il diritto di, ha il dovere di collaborare con tutti gli allenatori, con tutta la società, sempre, e questo ve lo dico con la pancia e con il cuore. Sì, Leonardo, ma io sono, ripeto, sono d'accordo, ma che cosa sarebbe successo allora se alle 23:22 il medico della Juventus avesse scritto al suo collega della nazionale lascia stare Giorgio, non è ancora in condizione? Magari quella lista sarebbe cambiata. Io torno a dire, secondo me quello che è successo domenica è più che altro un problema interno alla Juventus. Se c'è l'allenatore col direttore generale che stanno sparando a zero sul CT, com'è possibile che il responsabile medico stia dando il via libera allo staff del CT per la convocazione di Chiellini? C'è qualcosa, non ha funzionato lì. Tutti convocati. 800240024, carissimo Pierre, è arrivato. È arrivato la routine, no? È arrivato Materazzi, come va? Buongiorno a tutti. Come va col Perugino? Prima c'era Cristian da Castiglione del Lago, una cosa. Mi fai un bene, po'. Bene. Fammi un po' la tila. No, io non parlo. Non prova, dai, fa un po' la tila, no. G, com'è? Parlo tu. Ci provo, ma non sono capace. Mi chiedo scusa a tutti i perugini all'ascolto, non sono capace, ci provo, ma... Matrix, sei a Perugia? Eccomi. Sì, sì. Sappiamo che ormai disegni scarpe, sei quasi un... Cioè, fra qualche anno ti troveremo alla settimana della moda a fare lo stilista, lo sai questo, sì, no? Sono anche piaciute, perché sono rimaste poche. Però hai detto Perugina, sono anche piaciute. Senti, ma vabbè, insomma, Toir? Toir? Dico... Compra scarpe? No, voglio dire... No, non mi tira dentro questi discorsi. No, non ti tiro dentro questi discorsi. Ti chiedo solo se, insomma, se c'è voglia di Inter nella tua vita, questo te lo posso chiedere. Ma per quanto riguarda il tifo, sì. Ok. E per il resto si vedrà. Sarò per, di Pozzolini, per il resto c'era. Intanto mancano 100 giorni al mondiale, Matrix, ti fa sempre effetto quando ci si avvicina? Certo, fa sempre effetto perché è un ricordo penso indelebile per tutti quanti. Spero di, che se ne aggiungano altri per la nostra italiana. Ma quando è che avete avuto la percezione che poteva succedere quella cosa lì, meravigliosa? Quando è che, perché insomma era cominciata con l'assedio, con Calciopoli, con tutta una serie di... Ma a livello di squadra e di gruppo non aveva mai intaccato più di tanto, anzi, aveva fortificato. Perché noi sappiamo benissimo, conosciamo benissimo le persone che facevano parte di quel gruppo, sappiamo che erano persone per bene, quindi... aveva toccato più l'opinione pubblica e il rumore che non noi. Infatti l'abbiamo dimostrato. Ma ti dà l'idea Prandelli ad esempio, che si è messo a litigare adesso tre mesi dal mondiale, a rispondere a Conte? C'è un po' forse anche la voglia di creare quel clima da fortino che all'Italia ha sempre portato bene prima di queste grandi manifestazioni? Ma io penso che uno non debba essere l'imitazione di qualcun altro. Prandelli è sempre stata una persona, secondo me, diversa dal modo di fare del mister Lippi. Si ha detto queste cose perché si è sentito toccato. Evidentemente c'è stato magari poco dialogo, e la colpa non è nemmeno di nessuno di tutti e due. Ci sta che Conte possa aver detto certe cose, perché Giorgio è fermo da un mesetto con una forte contrattura al polpaccio. Il polpaccio sapete benissimo che in caso di ricaduta sono tre mesi, e tre mesi vorrebbe dire perdere una pedina importante per la nostra nazionale. Certo, però io presumo che Prandelli abbia parlato con qualcuno, o con il ragazzo, o con qualche, o con lo staff medico, come poi è stato detto. Sì. Quindi sapranno quello che stanno facendo. Certo. Senti, ma questa squadra, questa nazionale, ti sembra tecnicamente in grado di poter almeno ambire, no, a quello che anche noi nel 2006 almeno dall'esterno non sembravamo favoriti, eravamo un'ottima outsider, poi voi avete fatto un qualcosa di grandioso. Questa squadra ti sembra che abbia questa capacità nelle corde? Secondo me questa ha più un'identità di gioco, cioè cerca più di proporre gioco che non noi. Secondo me la squadra del 2006 aveva più campioni, a parte me ce n'erano tanti, quindi... forse anche più attributi, più personalità. Ma quello forse sì, però questa è una squadra che nasce da 2-3 anni, dove ha fatto un europeo incredibile, dove ha perso contro i marziani e dove ha un'identità ben precisa, che è la colonna vertebrale, che sono Buffon, Pirlo e De Rossi. Quindi io penso che possano trasmetterlo tranquillamente quello che era lo spirito del 2006. Tu da compagno di squadra l'avresti lasciato a casa De Rossi per questa storia del pugno, anche se solo un amichevole, o sono situazioni di gioco? Secondo me sono situazioni di gioco, si vede il finale dell'azione, non sappiamo come sia andato il prima, e quindi è facile fare processi su quel poco che si è visto. Poi è stato fatto vedere un miliardo di volte ancora durante la partita, questa è ingigantita secondo me quella che era. Poteva essere uno scontro di gioco. Quindi hai ragione. Anche Jesus penso che sia stata da vedere meno evidente, ha preso tre giornate anche lui, perché secondo me si fa condizionare anche il giudice. Quindi hai ragione Garcia quando dice che la TV non mostra tutto e bisognerebbe fare attenzione poi ad applicarla anche come prova per le squalifiche, come in questo caso di De Rossi e Juan Jesus. Secondo me sì, però anche perché c'è da dire che il giudice non ha mai giocato a calcio, come tanti vostri colleghi, quindi siamo, ma anch'io, anche Pierluigi non ha mai giocato a calcio. Infatti era per lui. Sì, io ho giocato la partita del cuore e ho fatto 18 minuti imbattuto, e questo carta canta, ci sono registrazioni video. Senti, mi chiede Michele, ambasciatore non porta pena, perché sei così incavolato con Benitez? Devo dire che però nell'intervista dell'altro giorno mi sei molto piaciuto, perché insomma tu sei uno che non si tira mai indietro, che le cose le dice, e secondo me è molto meglio dell'ipocrisia che spesso invece alberga in giro. Però insomma hai detto che forse lì c'è stata poi una concorrenza di colpa, o sbaglio, no, nel non essersi amati fino in fondo? Ma può darsi, ma io infatti ho detto, non è detto solo colpa di una persona, quando non si ha d'accordo bisogna essere in due. Sicuramente secondo me il suo atteggiamento appena arrivato all'Inter poteva essere diverso, Ma ognuno è fatto a modo suo. La rimozione di Mourinho era un po' questo il tema, il fatto che è arrivato e voleva cancellare... Poteva anche essere quello, poteva essere l'atteggiamento. Probabilmente io ho avuto un pregio in tutta la mia carriera, che ho litigato. Sono stato poco simpatico a 2-3 allenatori, ne ho avuti una trentina, quindi se fosse stato il contrario probabilmente mi sarebbe dispiaciuto di più. Certo. E ho detto quello che penso e che ho pensato sempre. E il mio tweet quell'altro giorno... Sì. Non era riferito, io sono stato quello che l'anno scorso ha sostenuto che Napoli fosse l'unico antagonista della Juventus sempre, e ci sono le registrazioni che cantano, sì, quindi sì, sì. Si può andare indietro. Era il fatto che probabilmente le persone con maggiore personalità, vedi John Terry, vedi me, vedi Cannavaro, non sono state trattate come gli altri. Questa era una mia opinione, magari mi sbaglio, no, ma certo, dico solo per me stesso. Oggigiorno John Terry è il miglior difensore inglese, c'è una nazione che lo chiama e lo invoca a gran voce per andare al mondiale, penso che non era quel giocatore scarso che sembrava l'anno scorso. Sì, c'era un problema di rapporto con Benitez, evidentemente. Abbiamo meno di un minuto. Sì, no, io non so come finirà eventualmente contro Irma. Intanto qua è pieno di gente da Perugia che dice presidente di GDS mister del grifo, un sacco di messaggi. Matrix aiuta il grifo, la D del Donka, cioè una roba, corri con l'elettricista, messaggi incomprensibili. No, mi dici umanamente, guarda, veramente non voglio sapere il futuro perché alla fine sono fatti tuoi. Ma umanamente, Toir, che sensazione ti ha dato? La sensazione di uno forte, di uno che sa quello che vuole, e spero per il bene dell'Inter che riesca a fare ciò che ha in mente. Secondo me è molto importante quello che vuole fare. Mi sembra che col passare delle settimane sia cresciuto da presidente dell'Inter, inizio un po' soft, poi probabilmente si è calato di più nella realtà nostra, che non è semplice. Secondo me arrivare e dettare penso che è sempre... può essere controproducente. Arrivare, guardare, capire bene e fare immediatamente qualcosa penso che sia più produttivo. Grazie Marco. Ciao. Grazie a voi. Ciao Matrix. Grazie. Se beccamo, ciao, grandissimo. Pier, c'è il notiziario. Notiziario? C'è il notiziario. Le borse vanno alla grande oggi. No, oggi è una giornata oggi fantastica. Così, così. Il 4 marzo, le news. Convocati. A proposito di interisti, ti leggo Zanetti, un paio d'ore fa ha ricevuto il cartellino viola, yes. Premio per la correttezza e il fair play in campo, ha detto io sono a disposizione, il legame con l'Inter dopo 20 anni non finirà mai al di là del contratto, al termine della stagione con tranquillità vedremo con il nuovo presidente con cui mi trovo bene, io al Chelsea no, ho subito smentito, Mourinho sa bene come la penso, quindi... Bah, credo quindi... che la storia sia ai capitoli finali. C'è il sospetto. E vediamo, insomma, poi come dicevo l'altro giorno Carlo, poi alla fine sono due carriere diverse, quella del calciatore e del dirigente. A me sembra che Zanetti abbia tutte le caratteristiche per poter essere un ottimo ambasciatore dell'Inter. Perché rappresenta la fedeltà assoluta a questa squadra, perché rappresenta la correttezza completa in campo, insomma secondo me ha dei valori che se fossi insomma uomo d'azienda calcistica secondo me sono molto molto interessanti, e però chiaramente non è che ci può essere l'obbligo da parte dell'Inter di prolungargli il contratto anche dopo, quindi insomma è un equilibrio che bisognerà trovare. La mia sensazione anche alla luce di quello che abbiamo intracapito da Materazzi, parole di Materazzi. Che comunque e dai comportamenti di Toir dell'ultimo mese, che Toir dopo una prima fase di studio nella quale sembrava e tutti non capivamo perché non facesse nulla, perché lasciasse gli stessi dirigenti, sta entrando in maniera forte nell'Inter, secondo me ha fatto scuola accelerata, io l'ho già detto, la vicenda di Guarin, Vucinic, in qualche modo l'ha costretto a mettere mani e piedi nell'Inter. Daniele dalla provincia di Lodi, Daniele. Pronto? Sì. Prego. Faccio una linea, benissimo. Buongiorno a tutti, auguri Pardo. Grazie, è squisito. Io temo di essere leggermente fuori tema ormai, perché avevo chiamato pensando alla dialettica Conte, Prandelli, sì. Eccetera, ma vedo che siete già molto... Ma no, ma si può fare quello che si vuole, prego. Tema va libero, bene. Come allora, scuola. La mia opinione, puramente personale, da spettatore, ma anche da osservatore attento, è che Conte, al quale non si estraminimamente alcol. Io sono tifoso dell'Inter, intendiamoci. Non si contesta nulla qualitativamente, grandissimo allenatore, risultati strepitosi. Probabilmente soffre semplicemente di una dicotomia fra un enorme ego e un senso di insicurezza, perché non vedo nessun altro motivo per essere così sensibile, così facilmente irritabile e leggermente arrogante all'occorrenza. Ma credo che sia tutto qua, alla fine, senza andare a cercare grandi Sassolini né altri problemi, non so adesso. Sì, c'è anche magari. Chi scrive Prandelli della Fiorentina, guarda caso domenica c'è Juventus Fiorentina, ecco perché ha chiamato Chiellini, perché poi Pieri, i dietrologi non vanno mai in vacanza. Io però non penso che il problema di Conte, Pier, sia l'insicurezza, una forma di insicurezza, di timidezza che lo spinge poi ad alzare le barricate. Non lo so, a me non è piaciuta la sostanza, stiamo rivedendo a loop la stessa cosa, a me non è piaciuta, scusami, la forma di questa vicenda, che poteva essere risolta secondo me con del buon senso, però se non è stata risolta con il buon senso evidentemente è perché non c'è stata la voglia di farlo, o è stata sottovalutata e ci può stare, oppure c'è qualcosa di un pochino più profondo, di un rapporto magari non eccezionale fra i due protagonisti in questione, perché ripeto, Conte secondo me ha delle, dal punto di vista del buon senso ha delle ragioni. Dal punto di vista del buon senso, però sentire quel tipo di tono può essere sgradevole, perché può dare a tutto il resto dell'Italia la sensazione che la Juve voglia dei favori e voglia un potere che magari altre società non hanno. È abbastanza normale che le società facciano pressioni sui commissari tecnici in occasione di amichevoli o di partite poco importanti con dei giocatori che non stanno benissimo, per risparmiare le convocazioni che non sono proprio indispensabili. Non è una cosa così, fa parte dei rapporti di diplomazia, certe volte addirittura di cortesia, che esistono fra società e club, in un rapporto di collaborazione che deve essere profondo, anche perché la Juve di giocatori alla nazionale gliene dà tantissimi, però questa volta la collaborazione non c'è stata, e onestamente quell'uscita di Conte è un'uscita che capisco che possa dar fastidio, insomma non c'è poco da girarci attorno, sicuramente ha dato fastidio a Prandelli. Sì, Daniele scrive, il motivo della convocazione è molto semplice, doveva fare la fotografia per presentare le nuove maglie, ma la poteva anche fare, erano a Milano ieri, avevo pensato anche a questa cosa, no? Però erano già a Milano, la presentazione delle maglie è stata fatta a Malpensa, quindi alla fine poteva tranquillamente fare la presentazione delle maglie ieri mattina e tornare a casa. Silvio da Teramo, Silvio. Sì, prima di tutto auguri a Pardo. Grazie. No, sulla Terrell Chiellini nazionale, io non capisco una cosa che avete detto prima, sul fatto che Prandelli abbia avuto l'ok dal medico della Juve. Ma il medico non è che poteva dire bugie, Chiellini da un quadro clinico è guarito, non è solo allenato, e comunque l'ha sentito alle 11, ma la convocazione è arrivata alle 18. Sì, allora l'SMS, così come è ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, quello delle 23-22, Chiellini non gioca ma è a disposizione, sta bene e ha fatto anche il riscaldamento. Queste dunque le parole che avrebbe scritto, secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, il medico della Juventus allo staff della nazionale. Tra l'altro il vero paradosso è che ieri è quello che l'unico che si è allenato praticamente, sì. E si è allenato proprio perché doveva seguire un percorso di recupero dall'infortunio diverso rispetto agli altri giocatori, quindi alla fine non ci sono stati grandissime differenze rispetto al programma, perché poi i percorsi sono concordati con i club, quindi non è che i giocatori vanno in nazionale e si stacca il cordone ombelicale con i propri club. Cioè, questa cosa insomma, va ribadita, perché questa collaborazione fra società esiste ed è normale, non è una cosa patologica, è una cosa fisiologica che esista. Stavolta non c'è stata, se non c'è stata evidentemente perché c'è qualche storia un po' tesa sotto. Niki da Bari. Sì, sono Niki, buongiorno. Questo è il regalo di compleanno, ho capito. Sì, esattamente, volevo augurarti per Luigi un viaggio nel cuore di questo regresso italiano, come una cupa radiografia di quella grande bruttezza che ferisce la bellezza intesa come cultura, come sport, come coscienza civile, educazione. Scusi, un viaggio nel cuore, devo fare il replay. No, viaggio nel cuore. Come sport, sei come dello sport, perché tutti noi abbiamo lo sport nel cuore. E anche te, carissimo Pierluigi, che sei una pietra miliare dello sport in Italia. e quindi io ti ringrazio e ringrazio coloro che rendono possibile questa magnifica trasmissione. Ecco, ma Vendola, non c'è un po' troppo liberismo, eh? Non c'è un problema di liberismo in questa società italiana di fronte a questa grande brutta... Perché vedi Pardo, sì, quando la barbarie del berlusconismo voleva costringerci ad associarsi ai codici della negazione degli altri, questa mitologia un po' medievale, violenta, antica, tribale, questo racconto pieno di favole e di inganni, sì, questo mix populismo e liberismo che ha portato il paese alla deriva, sì, questo gattopardismo che torna in forma da moderno souk arabo. Se ti ho sputato, scusami. No, tanto è al telefono. Non avevo intenzione di non dare lo studio di Radio 24 con i miei sputi. Ma francamente sono molto felice. Quanti anni fai? Sono 60. 64. Però 60... li porti bene. Grazie. Li porti bene, grazie. Tanti auguri. Grazie, Niki, grazie. A presto. Chiama Barca poi, sì, che mi sembra... Eccolo qua, grande di Niki Vendola, sì, è una cosa straordinaria il signor Andro. Sandro Mercù. Eh sì, capito. Eh no, dobbiamo dirlo. Sandro Mercù. Andro, che Sandro? Andro. Io ho detto Andro, tu hai detto Sandro. Ma che è stata a fare la super... io ho detto Andro, Andro, a parte io lo conosco da 3 giorni, ormai siamo... lo amo alla follia, lo porterò anche a... andremo a cena. Senti, ma oggi me lo fai, non c'è più... Chiedo scusa. Che succede? No, che succede? In pratica... Tubo. Sapete cosa siete voi? Certo. Il nostro è giornalismo spazzatura. Voi sei Luciano? Siete? No, Pardo, lo sai cosa sei tu? Tu sei un lanzichenecco della comunicazione. Ecco. I lanzichenecchi sono quelli che avevano portato la peste in Italia. E tu sei come loro. Giornalismo spazzatura. Sensazionalismo avventato. Ti ringrazio, in pratica. Grazie, direttore. Grande, grandissimo. Sai il nostro amico Andro Sandro. Andro, ma certo che è Andro. Sai chi ha telefonato anche per i tuoi 40 anni? Chi? Sentiamo, pronto? Sì, pronto. Santità. Sì, io sono molto felice. Non vorrei dire per caso, perché se no mi scappa un'altra parola che non è forse la più adatta per un compleanno, ma forse De Pardo sì. Tanta ringrazio. Potrebbe fare, ma io ti auguro un buon pranzo, buona cena e buon riposo. Grazie, preghiamo per il Papa. Grazie, grazie. È sempre santità. Lui? È sempre Andro? No, è Francesco. Ah, Francesco, è Francesco. Lì potrebbe succedere. Va sogno, bene. Il sogno di una carriera. C'è Giuseppe Daenna. Giuseppe Daenna. C'è anche il signor Cruciani. Venga, signor Cruciani. Ma ieri finito, a Tiki Taka. Abbiamo finito. Abbiamo Vabbè, finito. Ma 30 secondi anche a Cruciani. Andiamo da Giuseppe Daenna. Giuseppe. Sì. Prego. Sì. Buongiorno. Sì. Come va? Ma bene. Volevo fare una domanda per Luigi. Sì. Per quanto riguarda Conte, sì, e queste sue esternazioni sia su Prandelli che su Cappello, io penso che ci possa essere qualcosa di più profondo dietro, perché è chiaro che magari avendo ragione sia nell'uno che nell'altro caso, però ha usato i toni sbagliati. Infatti è un punto più di tono che di sostanza, poi secondo me, insomma, la forma non è stata piacevole. Quanto è bella Marzamemi? Andare fuori. Andare fuori? Oggi andare ad allenare fuori, non più in Italia. Cioè ho l'impressione Conte, sì. Sì, che possa chiudere a breve in Italia, ecco. Beh, insomma, l'ambizione internazionale credo che ce l'abbia, credo che sia anche legittima, giustificata, perché insomma i capitali per fare un certo tipo di calcio sono soprattutto all'estero. Diamo il benvenuto a Cruciani, ieri sera l'avete visto a Tiki Taka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Pardo. Happy birthday to you. Incredibile, non avrei mai pensato dal cattivissimo Cruciani di ricevere quasi una serenata, Parenzo poteva 40 fare una cosa del genere. Forty years old, yeah, exactly. It was March. C'è chi ha scritto: Pier, non pensare che compi 40 anni, ma che fra 40 ne avrai 80. Ecco, speriamo. No, l'hanno scritto, certo, non l'ho inventato. Un metodo, sì, no, certo, però voglio dire, ci sono sempre, la scaramanzia conta solo per il 90%. Vabbè, me ne vado, volevo fare solo questo. Ciao. Vabbè, grazie. Ce ne andiamo. bello ieri a Tikitaka, anche nel selfie col signor Freccero. Va bene, ce ne andiamo, salutiamo, noi, grazie a tutti. Ce ne andiamo anche noi, salutiamo Franco Piantanida, autore di questa puntata, salutiamo Roby Scaltritti in regia, salutiamo il quarantenne Pier, a domani. A domani. 14:00. Ciao, dai.